Oh, questa qui è la traduzione del Coelet, Coelet è il libro della Bibbia. Le nuni libere, secondo me, che le più sei vicino a noi, insomma. E io vuoi fare una traduzione? Ho anche recitato, mi sembra, lì alla chiesa di San Bernardino, lì vicino a Tacalame, Santa Maria Nova, e ognuno anche al preda a sentire, insomma, c'erano quattro gatti, però vabbè. Le lunghe. Questi chini parol del Coelet, che le stai un'onde quei giust, vanità di vanità, el disse il Coelet, vanità di vanità, tu scos alle fia tra i via. Perché vi altre due di, de tu quel che il fa l'om, se che il gavegni indre. Guarda, generazione su generazione, un'altra già vuole arriva, ma la terra la cambia no. Vegna al su, va via al su, al fuga, al mura, per il naso ammo, bufa il vento, al sito bambolana, e tutta l'acqua la va in del mar che mai le pien, al vanca il tesin, senza mai fermas. Tu ci rob, fanno una gran fatica e nessun che riesce a capire il motivo. Sempre legge il lume in giro, l'uregge le dre che sculta, e quel che le stai, sicur che a mula vedarem, quel che fai, la fema a mu.